E iniziamo puntualissimi la prima puntata in mostra stagione 2023-2024 e ci porta in una bomboniera della metafisica, una piccola città ma dal grande contenuto, dalla bellezza che trasporta in un aspetto onirico ma quanto mai concreto. Parliamo di razionalismo, parliamo di metafisica, parliamo di Tresigallo. È arrivata anche per questa stagione la realtà, perché più che metafisica, anche se di metafisica parleremo, è veramente un aspetto quanto mai reale. Le giornate metafisiche, estemporanee, artistiche, mostre, convegni e visite in luoghi solitamente non accessibili saranno il 16 e il 17 settembre a Tresigallo. La seconda volta, è il secondo anno che portiamo questi appuntamenti su Radio Città Fujiko, l'edizione è la sesta. In approfondimento ne parleremo con organizzazione e organizzatore Davide Brugnatti di questa motivo di incontro. Vi ho parlato di architettura razionalista, vi ho parlato molto di frequente per quanto riguarda la pittura metafisica, l'aspetto metafisico, la filosofia metafisica per un grandissimo artista, uno degli artisti che amo di più, che è Giorgio De Chirico. Essere a Tresigallo è costantemente vivere in una piazza di De Chirico o in una sensazione che, appunto, come ho detto, sia metafisica ma è quanto mai reale. Parleremo di queste due correnti anche con Davide Brugnatti, ma daremo approfondimento soprattutto ai motivi di incontro che saranno 16 e 17 settembre a Tresigallo. Sentiamo allora di che si tratta e diamo il via alla nostra conversazione. Per il secondo anno che nella rubrica in mostra troviamo le giornate nella metafisica a Tresigallo. Con noi c'è Davide Brugnatti nell'organizzazione di questa serie di incontri, al quale do il buongiorno. Buongiorno Davide. Buongiorno William. Quindi ci ritroviamo per quanto riguarda un aspetto che è omnicomprensivo ma col filo conduttore della metafisica, e ovviamente siamo nella città della metafisica. Come saranno organizzati questi incontri, Davide? Le giornate metafisiche sono articolate su due giornate. La prima è quella di sabato 16, in cui ci sarà un seminario la mattina di stampo architettonico, si chiama Razionalismo, Patrimonio UNESCO, Realtà o Utopia, in cui avremo ospiti diversi casi studio dislocati in varie parti d'Italia. Poi seguirà l'apertura di una mostra sulla metafisica del colore del maestro Angles Granini, e nel pomeriggio abbiamo una visita guidata per le pillole razionaliste, sei interni della nostra cittadina visibili in questa occasione. La domenica invece due tour di mezza giornata ciascuno, uno alla cittadina con apertura straordinaria dell'ospedale, l'altro al distretto industriale con apertura straordinaria delle fabbriche. Le pillole razionaliste del giorno prima fruibili in forma libera con i volontari che li presidiano, il tutto in una cornice di chiusura al traffico della cittadina, con una estemporanea di pittura e una di fotografia. Quindi è un'immagine quanto mai estesa per quanto riguarda la corrente, e non solo, anche per la città, che è un po' una bomboniera di razionalismo e di metafisica. Hai parlato nello specifico di alcuni protagonisti che mettono insieme diversi aspetti. Intanto ti chiedo come si comincia per quanto riguarda questi incontri. Appunto, al sabato saremo alle 8:30 alla Casa della Cultura con i saluti dell'amministrazione comunale, e poi proseguiremo la mattinata fino alle 12:30 con i vari ospiti che si avvicenderanno, da quello che può essere lo Studio Valle, che si sta occupando del recupero della casa del fascio di Presappio, al sindaco di Correttola che ci parlerà del ponte sul Bastiglione, alla direzione museale dell'Emilia Romagna per quanto riguarda l'esperienza sia del mausoleo di Teodorico, che ha risvolti molto razionalisti, che del recupero di edifici dismessi in Ravenna. E avremo tutta una serie di dibattiti ruotanti attorno a questi punti. Thank you. Contingenti alla realtà sensibile, ma che ci porta all'emozione del sogno, un po' come questa musica, The John Batch Society per Universal Sound in ambito di soul spiritual jazz. Il disco che stiamo ascoltando è Earth Blossom. In ambito filosofico, andando oltre gli elementi contingenti, come vi ho detto, a quella che è l'esperienza sensibile, si occupa degli aspetti più autentici, più fondamentali della realtà, secondo la prospettiva più ampia e universale possibile. Si guarda allo studio degli enti in quanto tali, nella loro completezza. Ad esempio, cito Aristotele, la definiva scienza dell'ente in quanto ente a prescindere dalle sue determinazioni o attributi. È un tentativo di superare gli elementi instabili, mutevoli, accidentali dei fenomeni. La metafisica concentra la propria attenzione su ciò che considera eterno, stabile, necessario, assoluto, per cercare di cogliere queste strutture fondamentali dell'essere. Filosofia, in pittura, nell'ambito figurativo, una corrente pittorica d'avanguardia del XX secolo, grandissimo esponente Giorgio De Chirico, che durante il suo soggiorno a Parigi tra il 1911 e il 1915 usa per primo questo appellativo, sia parlando di luoghi, sia di dipinti e delle opere di grandi maestri anche dal passato. E per quanto riguarda l'aspetto così di passato, se vogliamo, seppur con una visione molto intensa, parliamo anche di architettura. È chiaro che va a braccetto con il razionalismo, e di questo anche ne parleremo per quanto riguarda spesso l'abbinamento col ventennio e come viene inteso, soprattutto, perché è tutt'altro, ma ci mancherebbe, tutt'altro che una nostalgia, semplicemente, o non tanto semplicemente, ma con motivo di studio e di approfondimento, di conoscere questa architettura e di conoscere la sensazione della metafisica. Quale miglior palcoscenico che Trisigallo? Onore al merito a chi dà approfondimento, seppur in una piccola cittadina che io ho definito bomboniera. Veramente, passeggiare per Trisigallo si ha la sensazione di vivere all'interno delle tele di De Chirico, contornati poi da questi edifici e da questi monumenti. Faccio solo una precisazione, ecco, io come ben sapete ho la passione votiva per quanto riguarda ogni aspetto, e il cimitero di Trisigallo è qualcosa veramente, merita una passeggiata, merita un motivo di emozione ulteriore nelle giornate della metafisica. Ma gli appuntamenti, come vi ho già anticipato, sono un po' ovunque, soprattutto in luoghi non solitamente accessibili della piccola città in provincia di Ferrara. Pomeriggio appunto la mostra e anche un laboratorio dedicato ai bambini proprio sulla metafisica del colore. A proposito della esposizione, ci puoi dire qualcosa di più? Sì, certo. Allora, il maestro Angles Grasini è uno degli ultimi espressionisti italiani ed è 20 anni che non espone. Ha scelto Trisigallo per riprendere la sua esperienza espositiva, che lo ha visto esposto in tutto il mondo, quindi per noi è un grandissimo onore. E poi avremo anche una mostra organizzata da FEDIC, che è il cineclub di Lago Santo, per quanto riguarda l'esperienza di Antonioni e Vancini su quello che è i film in Emilia Romagna. E quindi il giorno successivo potremo fruire appunto di quello che sono delle chicche che normalmente non sono aperte al pubblico e lo sono solo in quell'occasione, quindi una volta l'anno, potendo anche beneficiare del fatto di vedere queste, ma anche di capire qual è la conservazione e la tutela di questi edifici, che spesso sono sotto gli occhi di tutti, ma non essendo sotto i riflettori purtroppo non sono, diciamo, all'attenzione delle persone per quanto concerne la loro conservazione, pur nella loro importanza. Con la possibilità delle giornate metafisiche possiamo far conoscere sia la nostra cittadina che l'ospedale, l'ex ospedale che oggi è totalmente vuoto ed è fruito solo metà del parco, e questo è un tour che proponiamo. Un altro tour che proponiamo è quello al distretto industriale, con l'apertura straordinaria di edifici industriali, di cui uno è stato pensato e progettato da Giorgio Baroni, che per capirci lo strutturista che ha aiutato Moretti nella costruzione della Sala delle Armi al Corso Italico. E abbiamo anche un terzo tour, che mi pregio di dire che è già sold out, alle pillole razionaliste, quindi guidato da un nostro volontario che porterà i turisti in giro per i vari interni e spiegherà nel contempo la vicenda trisigallese legata alla vita di Edmondo Rossoni e tutto quello che è successo tra le due guerre e dopo la guerra, quindi capire in un itinerario della memoria quello che si può trarre dalla vicenda di Trisigallo. Il tutto, anche le pillole razionaliste, sono visitabili anche in forma libera, nel senso che pagano un biglietto, si può accedere passeggiando da una pillola all'altra e si troveranno dei preparatissimi volontari che spiegheranno l'edificio. Quindi anche è un piccolo viaggio che uno può intraprendere per conto proprio. Abbiamo sempre poi l'appuntamento della estemporanea di pittura e di quella di fotografia all'interno di una cornice libera dal traffico del centro storico. porta in altri spazi la parte che ho dedicato come commento sonoro al razionalismo. Prima la metafisica con The John Betts Society e il disco Earth Blossom. Ora Rhythmatism, questo nome decisamente futurista, in questo caso la Soul Jazz Record ha portato all'attenzione del pubblico un lavoro del batterista Steve Reid. Architettura razionalista, corrente architettonica che si è sviluppata in Italia negli anni 20 e anni 30 del XX secolo e in collegamento con il movimento moderno internazionale. Segue i principi del funzionalismo e procede in vario modo, infrange sino agli anni 70 con diverse ispirazioni. Vi ho parlato di radici antiche, si trovano nell'architettura romana classica e vediamo anche nell'architettura di impronta illuminista. E non solo, questo aspetto che dà un fascino molto particolare alla stessa cittadina di Tresigallo ha, diciamo, scusate la ripetizione, un aspetto veramente da bomboniera come contenuto, come emozione, in quanto in poco spazio ampiamente visitabile. Nonostante l'estensione, vi posso assicurare che il contenuto è quanto mai intenso. L'esposizione su cui abbiamo dato anche approfondimento, ma approfondimento anche su queste pillole metafisiche, su aspetti non solitamente accessibili e soprattutto la possibilità in dialogo con motivo di dibattito e incontro. Esposizioni 16-17 settembre 2023, per cui direi proprio che è un weekend in nome della metafisica da non perdere. Di solito nei miei giri tra Delta, nella bassa Ferrarese, per poi varcare il Po e arrivare nel mio amato Delta Veneto, la sosta a volte a Mesola, altro amplificatore di microsensazioni di cui vi ho già parlato e continuerò a parlarvi, oppure prendendo una strada diversa, e più nell'entroterra passando da Tresigallo, spesso sono motivi di divagazione nonostante abbia già visitato i posti più volte, per raggiungere poi ulteriormente a nord nel Delta del Po. È un'ottima occasione nello specifico per conoscere bene queste sensazioni e queste concrete, nonostante il termine metafisico, ma del resto nel metafisico vi è l'aspetto di realtà e come che poi sia trasformata in una sensazione da sogno, questo è un valore aggiunto. Allora concludiamo la nostra conversazione con Davide Brugnati, che ringrazio per la disponibilità, ribadiamo gli appuntamenti e vediamo anche la relazione di Tresigallo con la metafisica. Quindi a questo punto un motivo di conversazione che tra l'altro a me ha sempre incuriosito. Io amo Tresigallo, mi piace tantissimo. Come diventa città della metafisica e appunto quali sono stati i percorsi tornando indietro nel tempo? Perché questa città, pur essendo esattamente una cittadina come tu l'hai definita, ma artisticamente arriva a essere una vera e propria eccellenza. Ci puoi dire qualcosa di più? Assolutamente, ed è una bellissima domanda della quale ti ringrazio. Tresigallo, la città metafisica, è stata scelta come brand dall'associazione Torri di Marmo con il supporto della Regione Emilia-Romagna, con un bando della memoria, e con il supporto dell'amministrazione comunale dell'allora comune di Tresigallo, proprio per la sua unicità. I motivi che ci hanno spinto sono stati due. Uno è quello architettonico, perché lo stile razionalista, che è lo stile con il quale la cittadina di Trevigallo è stata costruita, è definito dagli esperti di settore e dalla letteratura come metafisica costruita. E questo trova riscontro nel secondo motivo. Passeggiando per Trevigallo si ha l'impressione di passeggiare all'interno dei quadri delle piazze d'Italia di De Chirico, che è il massimo esponente della pittura metafisica. E ci tengo a specificare che è Trevigallo che si ispira a De Chirico e non in contrario, perché Trevigallo arriva dopo in termini temporali. Ribadiamo l'incontro, le date, e a questo punto poi ci diamo appuntamento a Trevigallo. Siamo arrivati alla sesta edizione. Okay. E siamo molto contenti che questi eventi si siano potuti ripetere nel tempo, nonostante tutto quello che è successo anche pochi anni fa con la pandemia e quant'altro. Quindi sabato 16 cominciamo alle 8:30 puntuali alla Casa della Cultura di Trevigallo, e domenica 17 alla mattina alle 9:30 cominceremo con le registrazioni per i tour e inizieremo questa querelle di due giornate che vede Trevigallo protagonista dell'architettura razionalista e della metafisica. Che si rifà quel movimento di afro spirituale soul jazz. Lui è un contraltista e sax soprano, riporta queste emozioni in stile Art Ensemble of Chicago e non solo per la Universal Sound. È il commento a conclusione alle giornate metafisiche che saranno il 16 e il 17 settembre 2023 a Trevigallo, ovviamente su tutte, almeno che la rete in questo caso sia utile per chi vuole avere costantemente più vicino a sé la possibilità di selezionare la parte di incontro che magari al quale è più interessato. Ecco, decisamente in rete vi è la possibilità di seguire questi motivi di incontro. Saranno il 16 e il 17 settembre. Ben contento di aver riportato la metafisica sui 103.1 con questo che è un pochino il punto di amplificazione, seppur in un piccolo centro più intenso, ecco. E detto ciò, vi lascio con la musica di Maulawi e vi invito a restare in frequenza per la seconda parte della rubrica In Mostra. A tra poco. Ah, e ringrazio Davide Brugnati per la disponibilità e per essere ovviamente stato la nostra guida radiofonica per tutto ciò. A tra poco.